Europa 24. Un saluto da Gigi Donelli, benvenuti all'appuntamento con l'Europa. Oggi ci occupiamo di aria, l'approfondimento a cura di Laura Bettini. È l'anno dell'aria questo, l'anno in cui si discute la revisione della direttiva sulla qualità dell'aria in Europa che risale al 2008. Sebbene molte norme siano ancora purtroppo disattese in molte aree europee, specialmente le più popolose e industrializzate, la Commissione non intende ammorbidire la linea dura mantenuta finora, anche perché i danni inflitti alla salute e all'ambiente dall'inquinamento atmosferico sono ormai noti e certificati. Ma il nemico, l'inquinamento, è difficilissimo da sconfiggere e si nasconde perfino là dove non penseremmo mai, perfino nelle campagne. Ed è evidente nei dati sulle fonti inquinanti dell'aria elaborati dal JRC, il centro di ricerca della Commissione europea, il braccio scientifico, per così dire, della Commissione. Claudio Belis è ricercatore dell'unità clima del JRC con sede a Ispra, provincia di Varese. Un altro inquinante gassoso importante che è l'ammonio, che viene più del 90% emesso nell'ambito... In italiano si chiama ammonio? No, alla fine Belis ci chiarisce che il termine inglese ammonia fa riferimento all'NH3, che in italiano si traduce ammoniaca, e che questa per più del 90% viene emessa in ambito agricolo. La precisazione è particolarmente importante per noi italiani. Parma, infatti, è la capitale perlomeno europea dell'inquinamento atmosferico da ammoniaca, dovuto alle coltivazioni agricole e agli allevamenti che la rendono tanto famosa per i suoi prodotti gastronomici. È un problema serio e doppio. L'ammoniaca da sola è un danno per gli ecosistemi e in più, combinandosi con gli ossidi di zolfo provenienti dal settore energetico, si trasforma in particolato secondario inorganico che è mediamente di più del particolato da traffico. Mark Sutton è professore del Centro per l'Ecologia e l'Idrologia dell'equivalente del CNR britannico. L'ammoniaca nell'atmosfera viene principalmente dall'agricoltura, dall'urina degli animali d'allevamento. Volendo distinguere, l'80% ha origine dagli allevamenti, il 20% dai fertilizzanti, in particolare l'urea. Contribuisce al PM in atmosfera minacciando la salute umana e contribuisce sensibilmente alla perdita della biodiversità in Europa. È un problema serissimo. Che cosa possono fare gli agricoltori e allevatori? Ci sono tecnologie a bassa emissione già disponibili, che sono già obbligatorie in Olanda e Danimarca, e sono usate da un decennio. Ma in molti paesi non c'è alcun obbligo. Invece si potrebbero utilizzare altri concimi, o almeno tecniche di precisione per lo spargimento dell'urea. Dovremmo consumare meno carne, dice poi Sutton. Un punto che non riprende però Diane Mitchell, consulente ambientale dell'Unione degli Allevatori Britannici, proponendo comunque altre possibilità. Molte azioni sono già state intraprese dagli allevatori per la riduzione delle emissioni di ammoniaca e di metano. In Gran Bretagna, ad esempio, dal 1990 le emissioni di ammoniaca si sono ridotte del 20% e dati simili arrivano dalla Germania. Ma molto si può ancora fare, soprattutto nel trattamento del letame. La sfida, secondo me, sta nel trovare il modo di conciliare la produzione di cibo di qualità proteggendo l'ambiente. Quanto all'agricoltura, l'Associazione dei produttori di fertilizzanti europei, Fertilizer Europe, ha recentemente lanciato la campagna DAN, dal nome del fertilizzante che ora raccomanda agli agricoltori europei per la sua composizione più sostenibile. Testato dall'UNEP, Programma per l'Ambiente delle Nazioni Unite, DAN è l'acronimo di Direct Available Nitrogen, azoto immediatamente disponibile. Spiega l'addetto alla comunicazione dell'associazione Mark Kreans. La ricerca dice che si riduce la dispersione di ammoniaca nell'aria. Le emissioni da fonti organiche sono circa dell'80%, quelle dei migliori fertilizzanti con urea il 18%, quelle di DAN solo il 2%. E l'Europa che farà nella prossima direttiva? Il commissario all'ambiente, Janez Patočnik. Non posso prendere impegni prima che siano valutate le conseguenze di eventuali misure e senza un confronto interno alla Commissione. La nuova politica agricola europea può dare parte della risposta. Dobbiamo capire quale può essere una risposta complessiva. in complex way looks like. Evidentemente le carte sono ancora coperte. E con questo è tutto, torniamo domani come sempre intorno alle 13:10. Europa 24, in collaborazione con Euronet Plus.